Quando la notte giunge, il silenzio ha senso e non c'è vita nella mia villa, non una vita e né una stella. Non c'è vita fra le mie mani, non c'è vita nei miei divani, quando la notte giunge vedo tutto chiaramente. E non c'è vita che non mi appaia scura, neanche una vita che mi rassicura, nessuna vita che mi appaia bella, perché nessuna vita mi rassomiglia. E ripenso a Giorgia, coi suoi occhi azzurri e infelici, a rivangare insistente il passato, stanca anche lei di tale rito. Diceva, se ero piccola per decidere, perché proprio lui ha deciso per me. E quel gusto di ferro in bocca non è detto che sia sangue, ma l'amara sconfitta della trappola perfetta, della trappola perfetta, della trappola perfetta. Per non parlare poi di Giulia, lei che presupposti buoni li aveva davvero, oppressa fino a morire dalla realtà e dal suo fedore. Diceva, se i miei sogni erano tanto stupidi, chi è quello stupido che se li è portati via? Ero giovane e correvo, perché avevo fiato e gambe per la mia strada diritta, nella trappola perfetta, nella trappola perfetta, nella trappola perfetta. Anche se so che mi farà male, non posso non parlare di Caterina, una donna bellissima, sempre vestita da stracciona, così dolcemente in sintonia con il mondo e le sue contraddizioni. Diceva, nei miei labirinti non ci sono vie d'uscita, nessuno che m'ama o mi rispetta. Nella trappola perfetta, nella trappola perfetta, nella trappola perfetta, nella trappola perfetta, nella trappola perfetta, nella trappola perfetta, nella trappola. E adesso che non mi rimane che questo libro di memorie, che la mia è talmente andata che potrà anche essermele inventate, non c'è vita che riesca a dare un senso al mio silenzio. Nessuna vita da poter amare, neanche una vita da incolpare nella tremenda vendetta della trappola perfetta!